Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città del Capo, siamo rientrati noi, i soliti pazzi di 451 frammenti sonori. Qualcuno ci ha anche rimproverato via blog del fatto che stavamo iniziando un po' tardi, che abbiamo fatto una pausa estiva un po' lunga, però d'altronde siamo fatti così, siamo fatti male. Tra l'altro ti sei pure beccato una polmonite nel frattempo, bravo, insomma, hai ragione, condizioni... una polmonite a un'età anche abbastanza avanzata, abbastanza inquietante, ma succede anche questo. Un'età avanzata la tua, sì, dice, ma in 80 generale, anni, sì, ne ho 80 in realtà, però mi tenevo bene, insomma, sono riuscito a mascherare. In realtà ne ho 80. Comunque 451 frammenti sonori rientra a pieno titolo, o forse anche a pieno non titolo, nelle frequenze, anzi sulle frequenze di Radio Città del Capo. Un saluto chiaramente da Max Macchia e da Elisio Scarpa. E dentro la materia sonora che ritratteremo e cercheremo di stravolgere anche in questa stagione 2012-2013, oggi è la prima puntata di questo nuovo corso. Chiaramente ricordiamo ancora il nostro no blog per coloro che volessero avere informazioni relative alle trasmissioni passate, anche queste che nei prossimi mesi ci metteremo a realizzare, sempre 451 frammenti sonori.noblogs.org. Troverete anche la possibilità di ascoltare le trasmissioni in podcast. E stasera, andando proprio subito a bomba in questa nuova stagione musicale, a bomba con le bombe, anche con le bombe. Ma ti sento un po' in cantina, io c'ho chiaro, adesso mi apro, ecco, mi apro ti a aprono te. Dalla cantina ti fanno salire sì, sulle scale, io sono salire. Una sorta di sgabuzzino un po' ridondante, ma va bene, la voce è un po' squillante, ma va bene così. E chiaramente la tematica di stasera non poteva che affrontare il tema della contemporaneità. Tu dici, ma perché in maniera naturale? Non lo so, perché così mi è venuta così, mi sembra abbastanza normale parlare della contemporaneità. Nei nostri giorni, dunque la musica dei nostri giorni, no, a parte gli scherzi, affronteremo il tema legato alla musica contemporanea. Abbiamo fatto poche trasmissioni negli ultimi 2-3 anni dedicate proprio esclusivamente all'universo della musica contemporanea per vari motivi, anche se la contemporanea chiaramente è passata in varie tematiche degli scorsi anni, delle scorse trasmissioni. Però abbiamo voluto aprire quest'anno proprio su un tema legato alla musica contemporanea, soprattutto legato a questi anni, a questi ultimi anni, gli anni zero. Dunque abbiamo pensato appunto di intitolare la trasmissione Tracce contemporanee, lavorando su i materiali che si muovono all'interno della musica contemporanea negli anni zero, dunque affrontando dal 2000, diciamo, al 2012, materiali nuovi, dove noi almeno cerchiamo di intravedere dove può portare la strada della sperimentazione all'interno della contemporanea in tutte le sue sfaccettature innumerevoli e multicolore, potremmo dire. E apriamo con... Sì. In effetti ci sono per molti aspetti dei colori dentro la musica di Nicolas Bernier, canadese, francofono, un personaggio insomma che sta destando piuttosto curiosità ovviamente stiamo parlando di musica, ma come dire, diventiamo anche un po' retorici in questo senso, musica per addetti ai lavori, maledetti ai lavori. Maledetti poi per molti aspetti, per fortuna anche che ci siano. Chiaramente quando si tratta di musica contemporanea, molto spesso insomma si porta dietro la contemporanea, la classica contemporanea, quindi l'appellativo che dà un po' il senso anche alla faccenda. E con Bernier, se si può parlare di classica, sicuramente forse si può parlare di classica più che altro per gli strumenti utilizzati, non per il modo in cui vengono utilizzati. In questo lavoro che stiamo per ascoltare, String Line, Pierre-Yves Martel e Chris Bartos, violinista uno e violinista l'altro, quindi due violini che si incrociano con il lavoro elettroacustico molto interessante di appunto Bernier, e che abbandona appunto la classica contemporanea, però avendo memoria di quello che soprattutto è stato un grande personaggio che ha lavorato sugli archi in maniera sublime o supplime, anzi, supplime, come diceva qualcuno, perché, ovvero Giacinto Scelsi. Ci saranno anche un po' di italiani, tra l'altro, anche con un omaggio che speriamo, insomma, di riuscirlo a farlo perlomeno commosso. Ma supplime lo diceva Giacinto, Giacinto no, Scelsi non lo diceva supplime, lo diceva un qualcuno che poi tratteremo, un altro grande, poi magari faremo, magari lo intervistiamo, magari, lo intervistiamo anche in radio, un dadaista che non sapeva che di non sapeva essere su una rete locale che è diventato famoso, insomma. Però non svegliamo niente, no, non svegliamo l'arcano, anche perché stasera dobbiamo essere seri, prima trasmissione contemporanea, ci vuole una certa serietà, no? Poi in realtà, insomma, romperemo anche questa, perché insomma basta con questa cultura alta, per tanti aspetti si è rotta, però per tanti altri poi rimane ancora questo crisma, quasi anche questa soggezione da parte di molti a avvicinarsi a musica che invece hanno una grande fascinazione, appunto come questo String Line di Nicolas Berthier. Ci andiamo a sentire, Bernier. Thank you. Thank you. E prima accennavamo al discorso della timbrica, timbriche eccezionali nel lavoro di Nicolas Bernier, giovane autore nei pressi delle musiche contemporanee, quelle che si vogliono ancora considerare insomma tali, poi forse più che così di sistema ancora legato alla musica contemporanea, all'ambiente contemporaneo, si può parlare più di quella filiazione contemporanea più legata chiaramente alle avanguardie e più legata agli sperimentatori. Appunto, prima si faceva il discorso di Scelsi, proprio per questo discorso della ricerca timbrica assai affascinante, quasi narrativa, dentro le musiche di Nicolas Bernier, questo giovane canadese che stampa tra l'altro questo lavoro per Emprentis, anzi l'ultimo lavoro, che è anche una videoinstallazione, quindi c'è anche tutto un rapporto chiaramente con quello che il visivo, per molti aspetti insomma fondamentale negli artisti della contemporaneità, e stampa appunto per Emprent Digital, etichetta assai interessante per personaggi che si stanno affacciando in una maniera insomma densa e importante dentro l'ampio raggio delle musiche contemporanee, e anche storici come il prossimo che abbiamo voluto innestare subito dopo l'ottimo lavoro di Bernier, musicista assolutamente da seguire ancora per i prossimi lavori, e l'abbiamo appunto unito, essendo anch'esso francese, Michel Chion, musicista abbastanza conosciuto nell'ambito della musica concreta, essendo cresciuto e avendo studiato soprattutto in quel campo legato alla musica contemporanea. In particolare è stato assistente per anni di Pierre Schaeffer alla Gram, e poi successivamente ha lavorato anche per l'etichetta che poi ha prodotto gran parte dei materiali concretisti francesi come la GRM. È un musicista e compositore anche abbastanza particolare, Michel Chion, perché si è anche industriato attraverso dei vari studi e dunque attraverso anche delle ricerche abbastanza particolareggiate a portare avanti delle vere e proprie bibliografie e studi su autori, musicisti importantissimi nella scena della musica contemporanea come Pierre Henry, come François Bayle, come anche Jacques Tati e David Lynch, dunque anche molto poliedrico nelle sue ricerche rispetto alle sperimentazioni artistiche. Musicista che poi ha realizzato non poi numerosissimi album, tenendo conto che poi non è neanche più un ragazzo, essendo nato nel 1947, ma le opere più importanti, tranne un'opera del 78 che è la prima abbastanza conosciuta e importante, Requiem, che in passato credo che sia passata all'interno di 451 frammenti, sì, sonori, sì. Credo che sia proprio Requiem il disco di apertura, diciamo, delle pubblicazioni formali di Michel Chion, e poi altri dischi tra gli anni 80 e 90, ma se andiamo a guardare non sono numerosissimi, appunto perché lui si è anche molto concentrato in studi, in scritture, in libri e in collaborazioni di altro tipo. Il disco invece che andiamo ad ascoltare adesso può sembrare anche un po' distante, no, dall'idea concretista, anche perché c'è molta elettronica, ci sono degli elementi anche ritmici, delle batterie che molto molto interessanti anche nel modo in cui vengono inserite, però effettivamente lascia un po' perplessi, perché probabilmente il brano che abbiamo selezionato più dentro la trasmissione di stasera sta un po' più distante però dalle ricerche concretiste. Probabilmente la fonte sonora è presa da, sì, potrebbe essere presa, insomma, una spiegazione del rivendicare il concretismo. Il termine concretismo, perché appunto abbiamo letto che lui è uno di quelli che è andato a riprendere il termine, la definizione in musica concreta che si era un po' persa negli anni 90 in particolar modo. Andiamoci dunque a sentire questo disco che non abbiamo ancora citato, è Diktat, doppio CD uscito per la Noon Records nel 2010, anche lo stesso Chion ha lavorato con l'etichetta di cui prima Max parlava. Digital, sì. Dunque abbiamo voluto appunto collegare i due musicisti francesi. Dunque andiamoci a sentire Michel Chion da Diktat, Noon Records 2010. Diktat 7 fragments des récits de Melchisédek. Oh. Ah! E siamo rientrati con questo finale assolutamente delirante e situazionista di Michel Chion. In realtà non era Michel Chion, ma eravamo un po' di compagni che ormai disperati ci siamo lanciati con questi gorgheggi, con queste sorta di lamenti disperati per il periodo storico. Cioè, eravamo noi, in realtà abbiamo fatto un gioco per noi stessi per darci anche lo spirito giusto a affrontare la nostra stagione radiofonica, perché dovevamo aspettarci parecchie cose anche trash, ma può darsi anche di no, chissà. Intanto, dopo questo splendido lavoro di Michel Chion, Diktat 2010, l'album, doppio CD assolutamente da andare a reperire, usiamo questo termine molto generico con cui non si va nel merito di come si va a reperire, ma in ogni caso, anzi, possiamo anche entrare nel merito se vogliamo. Comunque, al di là di questo, Michel Chion, e passiamo subito a una formazione che si muove, diciamo, dentro l'impro radicale, ma che attraversa anche i meandri della musica contemporanea per un'affinità anche degli stessi musicisti, una formazione che comunque si è fatta apprezzare non solo in Italia, ma soprattutto direi all'estero. Uno dei rari casi di musicisti italiani che andiamo a pescare all'interno di 451, ossatura il progetto con la presenza di Martuscelli, Elio Martuscelli in particolare, però anche di altri musicisti che fanno appunto parte di questo progetto: Fabrizio Spera, Alessandro Carpentieri e Luca Venitucci. Un lavoro uscito nel 2002, ovviamente prodotto dalla Rare, insomma un'etichetta anche non di poco conto, che appunto elabora un percorso musicale estremamente interessante da parte degli Ossatura, che attraversano appunto meandri legati all'impro radicale, ma anche dimensioni abbastanza strane, particolari anche rispetto al loro percorso sonoro, per arrivare ad esempio al brano che abbiamo selezionato per questo percorso sonoro di Tracce Contemporanee di stasera, attraverso la traccia che si chiama Come Fine, che è interessante per il finale, l'ultimo minuto, dove c'è un lavoro su delle parti registrate oltretutto televisivamente, ma non vi diciamo altro, dove gli stessi Ossatura si mettono a giocare spezzettando e decostruendo il linguaggio, cosa che abbiamo trovato in parte attraverso, diciamo, la fonè, la voce, il suono prodotto dal delirio del delirio precedente. Ritroveremo anche in altri lavori nel corso della serata, credo. Sì, magari diciamo anche che dopo metteremo Gareth Davis e France-Marie Witty, e sperando insomma di averlo detto bene, visto che è una dei personaggi più importanti delle musiche classiche contemporanee dei nostri anni, appunto, anch'essa molto legata al mondo delle avanguardie, o insomma delle sperimentazioni sonore che hanno attraversato il Novecento, personaggi come Gurtag, come Nonno, Scelsi, Andriessen, cioè, se ne possono veramente citare tanti, come d'altronde è tanta è stata anche la collaborazione e l'attività collaborativa appunto della WT, non soltanto in questo caso con Gareth Davis, ma ad esempio con personaggi anche piuttosto eterodossi che si stanno avvicinando appunto alla musica contemporanea, come Scanner, lo Scanner degli ultimi anni, molto vicino alle elaborazioni proprio che si possono definire tali, Stefan Vitier, che poi è sempre insomma giro appunto legato a Scanner, la grande Paulino Oliveros ad esempio, Elliot Sharp in parte, che oltretutto così lo citiamo, infatti, per ricordare che è venuto un gran concerto sabato scorso proprio all'Area Sismica a Ravaldino. Poi entreremo in caso nel merito, vi diremo i prossimi appuntamenti di uno dei pochi luoghi dove veramente si fa una ricerca e una sperimentazione musicale da tanti anni, con uno spirito assolutamente che noi condividiamo, estremamente aperto, non legato a schemi o a conoscenze o a collegamenti, ma proprio attraverso un discorso sinceramente legato alla musica, alla sperimentazione, con un'idea anche di collaborazione con tutte le realtà che poi nella regione si muovono sul terreno sperimentale. Questo veramente è giusto citarlo, lo diciamo adesso, ma lo diremo anche nella seconda parte, vi diremo gli appuntamenti più importanti fino a dicembre di quest'anno. Sì, cioè, appunto ce ne andremo a sentire da un piccolo frammento di Gramercy, come d'altronde sentiremo anche un piccolo frammento di Ossatura con il loro Bel Verso, disco del 2002. Cioè. Thank you. capi, pezzetti di conti, colpiti, pezzetti, dopo tutti i fissiti, questi piccoli tipi, pezzetti, colpiti, pezzetti di conti, rispeditivo, mili, primo pomeritivi, radre, italiani, convo, tacco, tar, di veicolo, come andiamo alle polemiche. Allora, questo quando, secondo quaterebbe distrugge la misto danni. Dopo il cintamento, infusi di crollo, il veivo di veicoli italiani, secondo quanto abbiano ripreso l'arto della volpe. Il sertre si linea, il nostro corrispondente più tardi, e ora andiamo alla tia Specchinner, e brutto, e su Cognani. Allora, menti. E tamane hanno costano intro di mili italiane, tale imponde ai verbe condotte, che parlato delle che c'era, ha detto no. Più volte quello dello Giovanna Boccotta.